non cerchi, io cerco e trovo sempre le zone buone. Sì, vabbè, ma io non posso vendere niente ancora, prima devo fare il coso. Hai capito? Insieme a Giovanna e Giampiero, quindi se non facciamo quello non possiamo vendere niente. Il discorso è quello. Poi c'ho anche da pagare un bel di roba, capito? Piano piano faccio tutto. Adesso ma è tutto, devo andare all'ufficio di collocamento, se riesco a entrare con il birello. Se sono fortunato che mi chiamano, è bene, se no se la prendono in culo. Ho visto che stanno facendo assunzioni, sto cercando cuochi, eccetera, eccetera. Ci vado e faccio un po' di domande, poi vediamo se riesco a essere fortunato, se no va a far culo e passa buone feste. Ascolta, ascolta me, c'ho gli altri. Ma non ti hanno chiamato a te i servizi sociali per darti lavoro? Nulla, non mi hanno chiamato. Quando sono andato gli ha dato tutta la documentazione, gli ho dato. E dice, guarda, già faremo di tutto per chiamarti, per farti fare un po' di lavoro. Tu ho visto, ne hai attestato, ne ho visto io, quindi a un certo punto mi muovo io. Perché se no rischio, se non ci vado, rischio che me lo tolgano, capito? Quindi devi andare ogni mese all'ufficio di collocamento, presentarti, firmare il patto per il lavoro, perché adesso devi fare così, tanto navighetto non ce ne sono, quindi bisognava, adesso vediamo un po', siccome io appartengo ai valori civili, quindi speriamo bene che scattavamo qualche cosa dell'ufficio di collocamento, se no vediamo un po' di essere sociale, se riesco a fare qualcosa, perché io non è che posso affidarmi anche Simona da sola qui, il discorso è quello, perché ha problemi a volte quando le gambe gli si piegano, hai capito? Non vorrei trovarmi in terra, magari che sto lavorando, mi chiama il pronto soccorso, mi dice guarda che tua moglie è all'ospedale, c'è anche quello, capito? La paura di quello, però se non vado a lavorare per guadagnare di più, io con quella cagata di cittadinanza non faccio niente. È così, ma se poi voglia di fare è giusto così, non come certi fanno loro. E chi è questa mutante? E dove è la mutante? No, è Claudio che non esce. Ah, ho capito. Già non ho problemi, c'è anche la sala se c'è. Io ho la Thalas, come è nuova, gli ho dato tutta la documentazione, sia la mia sia quella di Simona, capito, per fargli avere la pensione. E quindi parlo direttamente con la Thalas, poi ce la vedo a Carboni, in pratica è il sociale di Giampiero, quindi di, anche di Giovanna, gli hanno unito sobrie per quello. Ok, vabbè, vedi un po', avvicinati, vedi fare qualcosa, è comunque una persona molto molto gentile. Vai, il cambio per Giulio, vai Giulio. Ok qua, sì, sarebbe una fortuna se riuscissi a ottenere il lavoro, solo che tengono in considerazione anche l'età delle persone a cui offrono il lavoro, a quelli, perlomeno parlando di quelli del reddito di cittadinanza. Per cui bisogna vedere, bisogna essere fortunati. Comunque prova Antonio a fare il tentativo, come ti ha detto Claudio, può darsi che magari quella signora riesca a collocarti, e chi lo sa, io ce l'avevo di cuore, figurati, ci mancherebbe altro, perché purtroppo nella vita senza lavoro non è che si va avanti, si va avanti molto ma molto male. Va bene, dai, avanti Gianni. Antonio, quello che ho capito io è se tu trovi lavoro adesso ti danno lo stesso tanto oppure ti danno lo stipendio normale? Oh, se trovo lavoro, lavoro vero e proprio, tipo magari Birello o cosa del genere, prendo lo stipendio di Birello e metto il reddito di cittadinanza, capito? Però se vado a fare il servizio sociale, il reddito di cittadinanza non me lo tolgono, mi danno sempre lo stesso tanto, però devo fare, sono 8 ore... mi sembra settimanale, adesso non mi ricordo bene come funziona questa storia qua, ma se faccio e mi lasciano il diritto di cittadinanza, capito? Vabbè, uno se lavora si sente anche più utile, prendere questi soldi senza lavorare è un po' brutto, nel senso che sembra di essere di prenderlo così, molti sono parassiti perché cazzo si drogano, fanno cazzo, si bidano di denaro matessi e non fanno nulla, sono tutto il giorno al bar e vai. Antonio, il minimo è 16 ore settimanali, capito? Praticamente se tu prendi 500 euro di cittadinanza ti lasciano quello, più ti aumentano le 16 ore lavorative che fai, quindi vai a prendere altre 500 euro in più, 500-600 euro in più, capito? Come sta facendo questo mio amico? Gli hanno lasciato le 500 euro del reddito di cittadinanza e in più lavorate, prende intorno alle 750 euro e c'è uno stipendietto, insomma, buono, dai, capito? Io non so meglio di niente, cioè, ma è quello che voglio fare, cioè a me stare in casa buttato, aggattarmi, non mi piace, sono sempre abituato a lavorare, e trovate tutto un tratto che non fai nulla, ma che in pratica vai dal letto al coso, alla tavola, al letto, no, non sta bene, capito? Mi piace lavorare a me, almeno la mattina mi passo l'ora, sono molto più tranquillo, molto più sereno, eccetera, eccetera. Quando vengo a casa, mi siedo, mangio, dopodiché se mi voglio coricare un paio d'ore mi corico, se no mi faccio una passeggiata. Almeno sono più tranquillo, invece con questa storia di questa carta, hai capito? Non puoi fare quasi nulla, puoi fare solamente la spesa, eccetera, eccetera, non puoi fare nient'altro. Quindi mi interessa più il lavoro, adesso vediamo un po' di fare queste domande qui e vabbè, ormai ci voglio 58 anni, speriamo bene che mi prendano almeno a fare qualche cosa, anche a fare Birello, perché ormai c'è un sacco di gente che lì all'Istituto delle Belle Arti stanno cercando Birelli perché devono sostituire quelli che sono anti-Covid, capito? Sì, ho sentito un po' di cose, no? Non c'è problema, anche perché c'è un paio di persone che lavorano in quel settore, quindi è così. Vabbè, vedete un po', vedi un po' Antonio, mi auguro che trovi qualcosa, perché stare a casa così buttato non è tanto bello. Non è tanto bello, va bene, noi oramai abbiamo dato, quindi non è che si bida più nessuno. Però tu, se hai ancora voglia di fare, nonostante l'età tua sia mattino. Però se hai voglia di fare, buttati, perché qualcosa in più te la danno. Tutto qua. Il cambio per Claudio Di Muro, se vai Claudio. Ok Claudio, d'accordo, siamo qua, se puoi ritornare siamo qua, non c'è problema. Purtroppo così Antonelli, questo è un problema grande, ma non solamente qua della Sardegna, ma di tutta l'Italia e forse anche parte dell'Europa. Purtroppo il lavoro oggi è molto ma molto difficile da ottenere, soprattutto arrivati ad una certa età. Il problema è questo, non è questione di cittadinanza, okay, perché quando uno non lavora, insomma, perde anche in dignità, tra virgolette, perché purtroppo se non hai lavoro sei praticamente una specie di persona handicappata, in poche parole, almeno per quanto riguarda il proseguo della vita. Perché se vedete la cittadinanza oggi c'è, domani magari può anche non esserci più. Speriamo invece che continui, perché c'è tanta gente che ha necessità di vivere, non dico vivere, ma almeno di sopravvivere con questo aiutino che stanno dando con il reddito di cittadinanza. Purtroppo il nostro governo ancora non è riuscito a sistemare questa questione qua e speriamo che ci riescano prima o poi, ma sarà molto ma molto difficile. Vedi che preferiscono aiutare quelli che arrivano da fuori, hai visto cosa gli danno? Gli danno vita alloggio, le danno tutto, le danno, non pagano tasse, non pagano accidenti, non pagano sanità, non pagano niente e hanno più privilegi di noi che abbiamo il diritto che siamo italiani. Purtroppo è così, ma avanti Gianni. Purtroppo sì, purtroppo. Ma io ne avrei dato lavoro a pulire, ce n'è lavoro a fare in città, pulire l'erba, togliere tutte quelle cartucce che ci sono in terra, cose pulire, fare, ce ne sono di cose da fare. Ma voglia che ce n'è di lavoro da dare ai giovani. C'è l'erba che è alta 3 metri, certi posti. Tutto pieno al verde urbano già, hanno occupato tutti al verde urbano li hanno messi. Sì, è vero, quello è vero, purtroppo lì c'è poco spazio in quel settore, però non è così solamente che deve funzionare, dovrebbero cercare di aprire i posti di lavoro verso le aziende, perché se no devi considerare questi quando tu li assumi, anche nel sistema del comparto verde, devi anche assicurarle queste persone ovviamente, e tutte queste spese ricadono sempre sul governo, sullo Stato. Se invece loro aprissero un sistema valido per le aziende assumerebbero il personale e allo stesso tempo pagherebbero anche le tasse, oltre al fatto che rivaluterebbero il settore lavorativo di qualsiasi mestiere. Purtroppo è così, non fanno niente, capito? Preferiscono andare lì in Afghanistan e portarsi tutta quella gente qua. Hai visto anche oggi ne hanno arrestato una ragazza che era carica di esplosivo, una di quelle persone dell'ISIS, pronta ad esplodere a Milano. Ma cose vergognose, guarda, veramente. Abbiamo ribattute 50.000 volte queste discussioni, ma il governo è sordo, non ci sente da quella parte. Vai Antonello. Si è spostato, vai qua. Ma Claudio era in querici. Giulio, ma te ne dico una. Ma che cosa fanno? Che cosa fanno? Cosa devono fare? Allora mia figlia non riesce a trovare gli extra per il sabato e la domenica, hai capito? Non riesce a trovare extra. Una sua amica conoscente, ok, gli ha detto no, io me ne sto a casa, intanto sono pagata lo stesso, c'ho il reddito di cittadinanza. Ma guarda, io per un extra dalle per dire dalle 16 sino alle 22-23 ti do 50 euro. No, non mi interessa, sto a casa, sono pagata lo stesso. E queste sono risposte che stanno dando tante persone. Hai capito che il sistema e tutto il contesto è sbagliato. Claudio, a proposito di ragazzi, il Mar di Roma dice che vogliono farli chiudere perché fanno macello, non so, sentito al televisore che stavano dicendo così. Guardi via Roma, ci sono guardi via Roma, ce ne sono 50, non di certo quella via figlia, mia figlia chiude alle 10, non le farò turno mia figlia, no, non ce n'è problema, peggio per loro che stanno sino all'una, alle 2, alle 3 di notte, prendi casino, e ben venga, li devono chiudere, no, mia figlia chiude alle 10. Perché dice che si sono lamentati gli abitanti della zona che facevano un po' di macelli. Ci saranno anche i dati a mezzo. No, no, ma figli a chiudere alle 10, no, non le fanno notturno loro, non ne hanno bisogno. Grazie a Dio già lavora tutto il santo giorno, arriva per una notturna da via di 54 Bergone, ma la figlia massima alle 10 e mezza a casa, 10 e un quarto, dipende. Non ce n'è problema. So che ne hanno chiuso due, ma per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, come si chiama il bar di Martinez là? La bottega della frutta e l'altro? Quello a fianco? Il divino. Hanno chiuso per tre giorni la bottega della frutta e il divino, che hanno fatto casino oltre l'aria stabilito. Più li hanno messo non so quanto di multa, hanno fatto bene, capito? Anche il bar si devono adeguare, non ci fanno niente aperti sino alle 3, alle 4 del mattino a dare a bere a 4 embriagoni e a disturbare le quiete pubblica. Non va bene, il bar deve chiudere alle 10, basta, finito. E mi sembra che sia un orario abbastanza buono quando gli concedono di chiudere alle 10, certo che sì, anche per evitare un pochino di delinquenza, perché si sa durante la notte poi quando sono ubriachi vanno a fare del male, vanno, per carità. Sì, ma è così, è vero, anche io l'avevo letto sul giornale che due di quei bar erano stati puniti proprio in quella maniera lì. Comunque, vedono loro cosa vogliono fare. Nonostante le regole che ci sono, non le rispettano, e allora non rispettando giustamente le leggi le applicano e fanno bene, secondo me, se no è inutile che ci siano anche queste regole. Va bene, comunque, speriamo bene. Dai, riprendi Gianni, pure rilancia per Antonello se è rientrato, vai già. Non so se ci sia ancora Chiodo Ruggito, vediamo un po', lo chiamiamo, Chiodo ci sei. Ma ha detto che rimaneva in quell'X che si allontanava dalla radio. Sì, lo so, ho detto, ma dopo che finisco di telefonare riattacco se ci siete. Vabbè. Ok, dai, riprendi tu Claudio, un secondo solo che sto parlando una cosa al telefono. Ehi, glielo sento a Claudio se brecca, c'è un segnalone qua 9.40, non c'è problema, siamo di fronte, quindi lo vedo adesso a lui, prima non lo vedevo da là. Va bene, è così Giulio, capito? Non trovano, ma l'altro giorno non sai quante sue amiche, quante persone che ha chiamato per fare gli extra, capito? Perché c'è molto molto lavoro il sabato, soprattutto la domenica mattina, sono tutti lì aperti, non aprono domenica mattina. Non ha avuto uno, non ne ha trovato uno, capito? Tutti la stessa risposta, no, no e no. Sì, stanno abituando le persone a non lavorare con questo reddito di cittadinanza, che poi sì, è vero che ci sono persone che hanno proprio veramente necessità di quei soldi per poter comprarsi il pane, però dovrebbero vedere a chi effettivamente questo reddito gli si deve dare o meno. Hanno scoperto l'altro giorno che c'erano 7.000, sto parlando 7.000, di quelle randaggi di zingari di coso della Romania, che tutti quanti se ne andavano in Romania e prendevano il reddito di cittadinanza, cose dell'altro mondo. Finalmente sono riusciti a scoprirli, penso che ne l'abbiano tolto, come lo toglieranno. Non è possibile, quelli in Romania quando prendono molto di stipendio, lavorando sempre a pieno ritmo tutto il santo giorno, prendono intorno alle 300-350 50 euro, mentre invece loro si prendevano 700-800 euro di reddito di cittadinanza dall'Italia, allo stesso tempo lavoravano in Romania e si compravano le case, si compravano, perché i soldi italiani nostri lì valgono molto ma molto di più, per dirti come sono le cose, no? Una vergogna, guarda Claudia, è veramente una vergogna, a volte danno i soldi a chi non ne merita, veramente, per non parlare poi tutti quei camorristi che c'erano e tutti quei delinquenti con delle case di proprietà a non finire, anche loro prendevano il reddito di cittadinanza, ma io vorrei sapere questo governo quando dà queste cose, quando mai non ci devono essere i controlli, boh, non lo so io, guarda, veramente, ma loro lo fanno apposta, così ci danno i voti, hai capito qual è il discorso? E la gente, loro pensano che la gente sia cretina, ma è spiegato perché che loro lo fanno con quello scopo, lo danno a tutti, perché? Perché si vogliono accaparrare i voti quando è il momento delle elezioni. Ecco, è questo il discorso, Claudio. Poi il reddito di cittadinanza secondo me l'avrebbe dovuto dare solo agli italiani che hanno bisogno, non a Calipurci. Già, che hanno bisogno e che hanno dato soldi al governo, che hanno dato soldi allo Stato, ok, perché io non sono d'accordo neanche a quello, non sono d'accordo neanche a quello, io ti do il reddito di cittadinanza, se tu a me mi hai dato soldi, se mi hai lavorato almeno 30 anni, se mi hai lavorato almeno 25 anni e poi hai avuto dei problemi, allora ti aiuto fino ad arrivare alla pensione, capito? Ma non è giusto che uno che prende il reddito di cittadinanza prende quanti uno che ha lavorato 35 anni, hai capito? 35 anni, io sono stufo di sentire queste cose, uno che ha lavorato 35 anni e percepisce 1000 euro di pensione, c'è gente con reddito di cittadinanza che ne prende 900 e non ha mai lavorato, Gianni. Sì, quello è vero, in effetti è così. Vabbè, purtroppo le leggi non le facciamo noi, sono sempre loro che comandano. Cioè, voler va visto, questo reddito di cittadinanza l'avrei dato, sì, però a chi realmente ne ha bisogno, e come dici tu, che ha lavorato e poi ha preso il lavoro, eccetera, eccetera. Non gente che non ha mai fatto un cacchio e mandroni tutta la vita. Tossici, tossici Gianni, tossici, c'è tutto Sassari di tossici con la, il cartellino giallo, hai capito sì o no? C'è tutto Sassari, corretto, i serenati sono tossici, buttati fuori dalle famiglie, capito? Parassiti di merda che non hanno mai lavorato, tossici, è una cosa vergognosa. Purtroppo cosa vuoi fare? E quelli sono tutti i soldi che fanno pagare in più a noi, le tasse, le anticredite, che non ce li tolgono a noi quei soldi lì. Che fanno pagare di più di tasse, aumentano questo, aumentano l'altro e li ricavano da lì su. Ma come si fa? È vergognoso, un artigiano, e qua ce n'è uno che può dire la verità, un artigiano che ha lavorato 50 anni, cazzo, prende 900 euro di pensione al mese, ma di cosa stiamo parlando? Se non ti dai il rimugio vai da Vammi, e tu che non hai mai fatto niente in vita tua percepisci i soldi dallo Stato a gratis, è vergognoso, vai Giulio. Purtroppo sì, se uno non ha pensato a rinforzarsi la pensione, guarda, è proprio un problema, veramente. Io ho dato tante di quei soldi per avere qualcosa in più che diciamo che mi va bene, adesso mi va bene quello che prendo. Però oltre a quello, se non avessi avuto quello che ho realizzato e messo da parte, ti posso garantire che allora non è che avrei potuto allargarmi più di tanto, perché ovviamente i soldi della pensione, per quanto possono essere intorno ai 1.400, non è che durano più di tanto, perché ci sono le tasse da pagare, ci sono le bollette, c'è la famiglia da mantenere, non puoi fare il morto di fame, ma per dire, fortunatamente ho una bella fetta, ma ti posso garantire veramente una bella fetta da parte, molto bella direi, che io auguro a chiunque, a qualsiasi artigiano e a qualsiasi commerciante anche, quello è importante, perché se no sarei stato tranquillo e sereno come lo sono, figurati un po'. Purtroppo è così, Claudio. D'altronde, lo sappiamo benissimo, uno se parla, se non parla non ne ha. Purtroppo è successo e sarà sempre così. Vai Gianni. Io penso che sia un modo di vedere che c'era prima e che si poteva forse anche fare, perché anche mio padre l'ha pensata come te, ci ha messo un bel gusto da parte e si è sempre trovato bene, malgrado avesse una famiglia numerosa, perché avevamo 5 figli di più, madre e padre c'erano 7, eravamo in 7 in famiglia. Però ha sempre conservato, vabbè, non aveva vizi, macchina non ne aveva, lui andava in bicicletta, gli piaceva molto il ciclismo, queste cose qua, ha sempre fatto ciclista quando era in continente, quindi non aveva vizi di bere, con poco e terra, capito? Non beveva nulla. Ma è così che deve essere, io ho lavorato una vita, però ho messo anche da parte, perché non ho mai avuto vizi, non ho mai precato, perché il sudore della fronte che io ho fatto, non lo potevo sprecare per dire per nei circoli o nei bar o in giro o comprandomi apparecchiature di un certo tipo eccetera eccetera, a me non me ne fregava niente di tutto questo, la macchina la consumavo e poi me ne compravo un'altra, sempre in contante, senza mai mettermi una ratta, e così facevo anche per il materiale che dovevo comprare per il lavoro, quando veniva il cliente che mi ordinava un lavoro, mi facevo dare almeno un 30% di acconto, con quei soldi andavo e compravo il materiale, dopo tutto quello che rimaneva era il mio, per dire, invece tanta gente cosa faceva? Si facevano dare, magari anche loro si facevano dare l'acconto, poi se ne andavano in giro e fin quando non si consumavano i soldi non incominciavano il lavoro, più di una volta non riuscivano ad incominciarlo, perché? Perché non avevano più i soldi per comprare il materiale, per dirti, no, nella vita ci vuole testa, ci vuole, non ci vuole troppa intelligenza per capire che cosa vuol dire il futuro, purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare già? Io, grazie a Dio, sto bene, non mi lamento, non mi posso lamentare, sto bene, nel senso della parola. E per ogni evenienza siamo sempre pronti. Anzi, devo dire, io ho sempre detto, per me l'unica soddisfazione, anzi la migliore in assoluto, è quella di essere riuscito a far laureare mia figlia, che anche lei sta lavorando da oltre 20 anni e si è fatta una posizione anche lei, si è fatto, e sta continuando sempre a lavorare, nonostante che potrebbe anche fare del lusso, che lo fa, sinceramente lo fa, ma che a volte io dico, ma lo stai esagerando? Dice, sì va bene, sto esagerando, però io mi devo presentare bene davanti alla gente, e ha ragione, vai Claudio. Vabbè, tua figlia è più grande, immaginati cosa ho fatto io, che ho 20 anni in più, in meno di te, che cosa ho dovuto fare io. Non ho nessun problema, proprio zero sotto zero, grazie a Dio anch'io ho la mia fetta, ho una bellissima casa, non lo dico io, lo dico agli altri, per me è normale. E basta, mia figlia ha studiato, non ha voluto continuare, però è già la... Già 16 anni che lavora, prima per conto di altri, adesso è già avviata per i fatti suoi, quindi non mi posso lamentare. Però la cosa che io nego sempre è: tu hai fatto quello che hai fatto, e chiaramente so che cosa hai fatto, perché l'ha fatto anche mia madre, perciò non c'è problema, è un contributo per l'ampliamento della pensione, praticamente versavi più contributi per poter avere una pensione superiore a quella che te poteva essere. Ma un artigiano che io conosco, che conosci anche tu molto bene, del tuo lavoro, del tuo, uguale al tuo, preciso identico, che ti ho mandato anche saluti da poco e continua sempre a darmeli, ok? Ha travagliato, gante a te, ed è ancora travagliando, Baromi, sta ancora lavorando perché prende 900 euro di pensione e deve lavorare ancora, capito? Non sta male, mi tu sai di chi sto parlando, di Natalino, non sta male, capito? Non sta male, perché è una persona che già sta bene, ma devi ancora travagliare, ma hai detto, devo ancora lavorare, perché la pensione è troppo poca, a parte il fatto che io non so chi sta fermo, non so se è più grande di te, non sa so stare fermo, tu lo vedi sempre in grembiule, sempre in bottega, sempre in vendi, perché io vado spesso lì, perché c'ho un altro amico carrozziere, la Salvatore Marras, e vado spesso lì a trovarlo, ed è sempre in bottega, sempre, a volte mi avvicino, sono andata lì, aiuto, prendi il caffè, aiuto, e andiamo, ci prendiamo un caffè, e se ne ritorna nuovamente a lavorare, capito? Quindi, se uno fa le cose fatte bene, si trova bene. Se le fa le cose fatte male, come hai detto tu, che le tirate rimagni, non è inutile. Perché a me a volte, anche stamattina, una persona mi ha detto, ma come mai sei già in pensione tu? Perché ho iniziato prima di te a lavorare? Ma se sei 2 anni piccolo di me, e vuol dire che tu hai cominciato da buri, ne avessi più poca gana. Capito? Io so, ho 62 anni, fra un po', a fine mese, ok, e sono già quasi 4 anni in pensione. E grazie a Dio non ho da recriminare niente, ho dato tutto quello che dovevo dare, tutto. Ho fatto tanti, tanti sacrifici, per che cosa? Per la mia famiglia, non per me, no, a me non mi è mai mancato nulla. Vai già. Solo che quando va per l'aspettitato con la pressione tu per avere un bruzzolo, a volte è meglio avere quella che ho io di pressione, forse prendo di più che magari andare in pressione con quelle vecchiaie. Faranno un cumulo, già, io non so come ti sei organizzato, io non mi posso lamentare, io sono andato in pensione con un accordo aziendale sindacale, 2 anni di scivolo mi hanno dato, liquidazione, più mi hanno pagato per 2 anni all'80% senza lavorare, e grazie a Dio adesso che ho terminato tutto il percorso arrivo intorno ai 1350-1400, però sto benissimo, ho una bella parte, come dice Giulio, siccome ho venduto la casa, so bene tutti, quindi qualcosa ce l'ho, non mi posso lamentare, però chiaramente a te faranno il cumulo, non lo so, ma ti abbasseranno la pressione di validità e faranno un cumulo con la contribuzione, quindi non pensare che vai a prendere quello che prendi adesso più la pressione dei 38 anni che ti hai lavorato, magari Gianni, magari, magari veramente. Andrai a prendere quanto sto prendendo io, non lo so che settore eri tu, se il commercio equivale a quello che ero io, tu eri privato, io dipendente regionale, quindi non lo so, ti auguro che la chiudi bene e che ti diano quello che ti hai lavorato, altro non ti posso dire. Hai capito Giulio? Zio Natalino, il falegname, tutte le volte parliamo sempre della stessa cosa, lei è più grande di te. È di 20 anni più grande di me, lo so, però evidentemente lui è stato anche molto aiutato dalla suocera, devo dirlo questo, ma lo dice anche lui, se per quello, anche l'appartamento dove abita, anche il magazzino è della suocera, per fortuna non paga affitto, così che diciamo che è tranquillo lo stesso, anche se non prende un granché di pensione. Però diciamo che anche lui qualche piccolo spreco già se lo fa, perché fa durante il giorno almeno 7-8 volte lì di fronte al circo a farsi la bevutina. Vabbè, ognuno fa quello che vuole, chiaramente, ci mancherebbe altro, però è un'ultima persona, già se lo merita, dai, già ha lavorato e sta continuando a lavorare, anche perché intanto cosa farebbe? Non avrebbe altro modo di tirare avanti la giornata, per cui è lì, non paga affitto, non paga niente, di tanto in tanto si fa qualche saggezza, così di legno, e arriva uno, magari le 10 euro per il saggetto che fa, e così via, oppure si fa qualche cassapanca, o qualche piattiera, e così via, e arrotonda, magari quelle le servono proprio per i suoi vizietti, dai, così, perché va a versi il vinello, va 7-8 volte al giorno a versi il vinello, io lo conosco bene, o Claudio, però ripeto, già se lo merita perché ha lavorato la vita e sta continuando a lavorare. Vai Gianni. Allora vediamo da su. Il bar a me mi vede ben poco. Quando mi vede per prendere un caffè, mi non prendo altro. Un caffè, un cappuccino mi posso prendere, una menta, proprio, ma sempre di raro, non è che vado spesso, a meno che trovi un amico, io che andiamo a bruciare una cosa, andiamo, non è che... Però non è che sono abituato. Gianni, ma non siamo in galera, non siamo, io vado tutte le mattine, tutte le sante mattine, sono abituato così, io vado tutte le mattine, adesso che abito qua scendo, da Via Maria, via Carlo Felice, mi prendo le sigarette, do un'occhiata al giornale, mi prendo il mio caffè, la mia pasta e me ne rientro a casa. Infatti mio dice, ma cosa esci a fare se stai un quarto d'ora, 20 minuti fuori? Io devo uscire, a me quello mi basta, vedo un amico, una chiacchierata, c'è il macellaio lì, due chiacchiere, bim bum bam e truba del caglio. No, io non ci sto al bar come si stava negli anni che furono, non si possono più fare queste cose, perché altrimenti ciò che hai messo da parte va via, non te ne accorgi neanche, perché trovi l'amico e lo inviti a bere, poi l'altro giro, poi devi riprendere tu, poi devi riprendere quello, poi di nuovo tu, è una cosa che non finisce mai, capito? Io sono d'accordissimo così, però io il caffè la mattina me lo prendo, esco 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, quello che è, e poi me ne rientro a casa, faccio colazione, mi prendo le sigarette, è un vizio che ho, non sto rubando niente a nessuno, e pazienza, quello è l'unico, ma sto tutto il santo giorno a casa, tutto il santo giorno, no, anche quando ero nell'altra casa era la stessa cosa, mi chiudevo nella mia cameretta, mi inventavo qualcosa da fare, qua invece è diverso, perché tutti i santi giorni c'è da fare, adesso pensavo oggi di poter rasare il tratto, invece non lo posso rasare. Pazienza, lo raggerò appena termina questo tempo brutto. Dai Giulio. Certo che sì, ma è così, in effetti è così, stai al bar, ti comporta spese, oltre al fatto che uno tutto sommato poi si abbruttisce anche, perché a me sinceramente non mi è piaciuto stare al bar, io quando, adesso vabbè c'è il discorso del contagio e dunque la mattina io difficilmente esco e quando esco solo per commissioni che non posso farne a meno, ma prima uscivo tutti tantissimi giorni immancabilmente, non facevo colazione a casa, andavo a Sassari, salivo a Sassari, noi diciamo così che poi anch'io sono a Sassari, perché le punte a Sassari per dire, no? E immancabilmente c'era il cappuccino, la pasta, poi un pochino più tardi, intorno alle 11, 11 e mezzo, c'era il panino, l'Antonello, sempre lì in via Pascoli, angolo di fronte a cosa dei bambini, dove c'è l'ospizio dei bambini, cosa che c'è lì. Tutti tantissimi giorni e non c'era giorno che non spendevo sempre quelle 4-5 euro immancabilmente per questo fatto qua. Adesso purtroppo sono già quasi 2 anni da quando c'è questo fatto del virus che non sono uscito, anche per paura, perché non vorrei assolutamente essere contagiato, ci mancherebbe altro, per cui io prendo tutte le precauzioni e tutte le attenzioni di questo mondo. Dunque al bar non ci sono mai più entrato e non ci entrerò mai più fin quando non sono tranquillo che il virus sarebbe scomparso completamente, per cui non mi manca comunque il bar, a me non mi può mancare, come non mi è mancata mai la sigaretta perché non ho mai fumato, anche quelli sono soldi risparmiati, eccetera eccetera. Vai Gianni. Io vado e vi saluto, dai che devo andare. Ci sentiamo, un pochino questo, mi ha fatto piacere la chiacchierata. Continuate tranquilli e sereni. Ciao a tutti. Ciao già, ciao, buona passeggiata, infatti visto che sono già le 7:15, vai Giulio. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, grazie a te per la chiacchierata. È così, d'altronde, ripeto, sacrifici ne ho fatto tanti, ma tanti, perché io uscivo a casa al buio la mattina e rientravo al buio la notte, sicché di ore ne ho fatto che tu non hai idea, ma tanti, che se ne avessi dovuto mettere tutti insieme, non l'ho fatto solamente in tutta la mia vita, 60 anni, 62 anni di lavoro, ma ne avrei fatto 80 anni di lavoro, mettendo insieme tutte le ore in più che ho fatto di quelle che deve fare un normale lavoratore, per cui però a me quelle ore mi hanno messo un po' di zeri, intendimi cosa voglio dire, davanti a 45 un po' di zeri. non so se mi spiego, già. All'interno di due appartamenti, tanto per essere chiari, non ti voglio dire di più. Ma per te, non mi posso lamentare. Veri, già ce ne sono, non mi posso lamentare. Però se tu fai un calcolo, che te l'ho già detto una volta, tu hai più di 20 anni di me, ok? E quindi se io ne ho 60 e sono già in pensione, tu ne hai quasi 80 e sei già in pensione da un po' di anni, fai bene i calcoli. Abbiamo lavorato assieme, capito? Quello che hai dato tu ho dato io, perché ho lavorato per 40 anni, però ho 20 anni meno di te. Ho fatto tante di quelle ore che tu non hai idea, perché ho fatto turni, reperibilità, e uscivo la mattina al buio e rientravo al buio, capito? Certo, si guadagnava tanti soldi, perché quando io ero a Cagliari avevamo le lire, il mio stipendio era 2.800.000-3.000.000, però si facevano ore, si facevano tante ore, tantissime, capito? E a 25 anni, io quando mi sono sposato, avevo 25 anni, io avevo già la casa mia, Fermoazzi, ho aperto ed era tutta arredata, tutta, mi sono sposato già con la casa pronta, capito? Quindi vedi tu, se ho sacrifici non ne ho fatto. Ne ho fatto tanti, tanti, tanti, tanti, e molti non capiscono cosa vuol dire fare sacrificio. Pensano che i genitori ti debbano mantenere sino a 50 anni. Mia figlia aveva 16 anni quando è entrata a lavorare, come me, sempre assicurata, e studiava e lavorava come facevo io, studiava e lavorava, e grazie a Dio non ho proprio da dire niente, nulla, anzi, auguro a tutti di avere tutto quello che ho avuto io nella vita, e che sto continuando a avere grandi, grandi soddisfazioni a 62 anni, non mi posso lamentare. Eh beh, certo che sì, che già lo credo. 62, io ne ho 79, sì che siamo lì, 17 anni e mezzo, 18 anni ti vinco, dai. E sono tanti, indubbiamente sono tanti, questo è ovvio. E in 18 anni uno realizza, certo che realizza, è l'ubito, ci mancherebbe. Però ormai hai raggiunto l'età pensionabile, per cui hai solo l'introito della pensione e basta, perché così purtroppo. È così. Beh, io ho incominciato che avevo 10 anni, andavo a scuola e al lavoro, a scuola e al lavoro e così via, per cui non ci sono problemi, e non mi lamento, e non mi sono mai lamentato, mai, né da bambino e né da grande, da adulto. Io ho sempre lavorato, anzi qualche volta, che grazie a Dio raramente mi sono sentito male, qualche volta anche se mi sentivo male ci andavo lo stesso, perché avevo l'impegno. E più di una volta sono andato anche di domenica a lavorare, più di una volta, magari a porte chiuse, ma io lavoravo dentro, e più di una volta ho finito alle 11 di notte, perché magari mi dovevo fare un incollaggio per averlo pronto per il domani, in modo che la colla asciugasse durante la notte e potevo proseguire quel lavoro che avevo in mano. Insomma, era una questione anche di volontà, perché se non c'è volontà, tante volte ti posso garantire che arrivavo a casa stanco, che quasi quasi non riuscivo nemmeno a prendere sonno di quanto ero stanco, per dirlo. Però sapevo che lo dovevo fare e l'ho fatto, solo ed esclusivamente con le mie braccia, senza l'aiuto e la collaborazione di nessuno, perché quando ho avuto qualche collaboratore, qualche ragazzo, era meglio niente, dovevo lavorare io per lui, perché era più il danno che ti faceva che altro. E nonostante tutto sono riuscito a realizzare, perché mi ritrovo con qualcosa di mio, che poi tra virgolette non è più mio, in quanto ho tutto intestato a mia figlia, per cui non me ne frega niente. Anche lì ci ho pensato in tempo, perché se un domani dico esattamente muoio io, lei poi avrebbe dei problemi di successione. Invece in questo modo glielo direttamente intestato, direttamente dal notaio, per cui è lei la legittima proprietaria di tutto quello che ho io, è tutto suo adesso, proprio tutto intestato a lei, capito Claudio? Per cui vedi bene che non ne ho avuto io problemi, sì, non ho avuto una famiglia. famiglia numerosa, come ad esempio ha avuto mio padre, questo è vero, però anche quello è importante, perché se tu ti fai una casa di figli, giustamente i soldi ce ne vogliono molti, ma molti di più. Ma oggi noi, diciamo, ne posso considerare, dice, un padre di una famiglia moderna, cioè senza una casa di figli, come si faceva prima. Vai Claudio. Anch'io ne ho una. Uno l'ho perso come te, quindi, però abbiamo realizzato le stesse idee, abbiamo fatto le stesse cose, anche nel cancello di casa mia c'è il nome e cognome di mia figlia, io non voglio nulla, nonostante abbia realizzato, ho già tutto fatto anch'io tutto, non mi interessa, io sono arrivato, quindi le nostre idee sono state uguali, come ti ho già detto, sì, tu c'hai 18 anni in più di me, ma se fai un calcolo c'hai l'età solo più di me, però anch'io ho iniziato da ragazzino, io avevo 16 anni, anzi ho iniziato a 15 anni, studiavo e andavo a lavorare, il sabato andavo a lavorare la sera, ok, tutti i santissimi giorni, il sabato e domenica lavoravo tutto il giorno, sia di sabato che di domenica, capito? Perché lavoravo all'hotel di Bisonis, facevo il manutentore della piscina, dei campi da tennis e di tutto, capito? Quindi ho sempre lavorato, sempre, come hai fatto tu, e oggi che mi trovo in questa posizione è perché ho fatto tutto quello che c'era da fare con la testa e hai messo qualcosa da fare, tutto qua. Però se ti fai un calcolo, tra me e te non cambia niente, cambia solo l'età. Però abbiamo iniziato tutti e due da ragazzini, e tu sei nato prima, ok, però io ti ho messo appresso, non ho buttato via niente, assolutamente. Quello che a me non piace è che c'è questo modo di pensare, capito, come qualcuno, cioè i miei genitori che mi mantengono, ma tu sei un grandissimo parassita. E certo che sì, ma quello dipende sempre dall'educazione che i genitori riescono a dare anche ai figli. Tante volte i genitori non hanno dato una buona educazione ai figli, non l'hanno inculcato nella mente che nella vita bisogna anche lavorare, o studi o lavori, le cose sono due, una cosa deve fare, però deve essere una cosa produttiva, non così per il gusto di andare o di fare, no, nella maniera più assoluta, per cui la vita è bella soprattutto per quello, perché uno alla fin fine, io mi ritrovo ormai qua alla soglia degli 80 anni e devo dire sono tranquillo, quando morirò sarò tranquillo lo stesso, perché so che ho formato una famiglia e l'ho lasciata in condizioni buone, ecco cosa penso io, è quello che a me mi premeva e mi preme sempre, perché è giusto che sia così. Se poi uno ha un genitore beneferista e uno che sta sempre tutto il giorno al circolo, ubriacandosi o buttando i soldi per se stesso e per gli amici, allora sì, è proprio un deficiente se uno si comporta in quel modo, ma non è il mio caso, guarda, ti posso garantire il mio caso, che io non ho mai bevuto e ancora oggi non bevo, non ho mai bevuto alcolici e non ne berrò mai, perché intanto perché non mi piacciono. Non ho mai fumato, ma non è quello il discorso, non sarebbe nemmeno il risparmio del pacchetto delle sigarette o di una bottiglia di birra, è proprio un altro tipo di mente che ci vuole, un altro tipo di comportamento che ci vuole nell'uomo, secondo me. Non è tanto il fatto del pacchetto delle sigarette o della bottiglia della birra, perché se la birra te la bevi, se la bevi in maniera tranquilla, senza abbruttirti, va anche bene, per carità, ci mancherebbe altro. Però non sono tutti che ragionano con questa mentalità, o Claudio. Vedi bene che le idee sono quelle. No, io la birra me la bevo a casa mia, però in veranda d'estate, bella, al fresco, e due chiacchiere, quindi sto bene, me la bevo. finisce poi devo andare da qualche parte che devo bere la birra, la bevo lo stesso, non è un problema. Però come hai detto tu, è la mentalità vincente che devi avere, perché se non hai quella mentalità vincente non riesci a realizzare un accidente, capito? Continuare a essere un parassita e basta alle spalle degli altri, perché un genitore non si sfrutta. Io ho un conoscente, non è neanche amico, un conoscente che ha 55 anni ed è ancora alle spalle dei genitori. E l'ultima volta che l'ho visto, anche gli ho detto a vedere se si era sposato, cioè, no, sto con me a casa di mamma, io certo, ricordati, l'ho detto, che però tua madre non camperà un'eternità, qua non ci sarà più tua madre, capito? Perché anche questo signorino qua c'è il reddito di cittadinanza e vive a casa dei genitori, gli ho detto queste testuali parole, ho detto ricordati che i tuoi genitori, come tutti i genitori, non vivono un'eternità per poterci dare tutto. Quando non ce li avrai più, mi darai la risposta. Ma i tuoi, quando non vivo più, vuol dire troverò una soluzione. Bravo, trovatela adesso la soluzione, che i tuoi genitori sono ancora in vita, parassita di merda. Sì, ma infatti quella è gente che non ha un minimo di intelligenza, non è possibile che uno possa parlare in quel modo, sto come a casa di mamma. Cosa vuol dire? Chi è che ti dice? Perché se lavori e ti comporti bene e poi ti contributo a casa, saresti male, anzi saresti anche meglio e avresti anche un po' più di dignità, invece in questo modo la stai anche perdendo, o l'hai persa la dignità, perché sei un parassita, come dici tu Claudio, che vivi alle spalle magari di un genitore che è pensionato e magari prende anche una minima pensione. Purtroppo di questi soggetti ce ne sono a milioni in tutta Italia e magari anche nel mondo, per dire, no? Però non è così che si deve ragionare nella maniera più assoluta. Un uomo arrivato a una certa età, oppure una donna anche, arrivato a una certa età, si deve formare da sola, deve essere persona indipendente in tutto e per tutto, deve essere. Rimanere sempre nell'ambito familiare può stare anche sino alla vecchiaia, non c'è problema, però deve essere sempre una persona che sia in grado di mantenersi indipendentemente dai tuoi genitori, perché non è possibile che uno possa essere così, per carità. Ripeto, io sono nato in una famiglia numerosa, mio padre ha lavorato anche lui come una bestia, però non ha fatto mancare mai niente a nessuno, e tutti i miei fratelli, che noi siamo sette figli, ormai i miei genitori non ci sono più, mia madre è morta circa 3 anni fa, più o meno, quasi 3 anni fa, mio padre, vabbè, è morto 27 anni fa, o 24, non ricordo bene, insomma nel 1997 è morto, in poche parole, e si che fai conto quanti anni sono, 24 anni, era 25 circa, siamo lì. Però ci ha insegnato a stare sempre sulle righe, non andare a fare del male alla gente come tanti genitori mandano anche i figli e li buttano così per strada, prima li sfornano e poi li buttano per strada, li buttano così a fare quello che vogliono e a farli vivere da randaggi. Io li giudico in questo modo, farli vivere da randaggi, perché solo così poi si diventeranno, quando non avranno più l'apporto e la forza dei genitori per mantenerli. Purtroppo non hanno tutti quanti la stessa idea che ho io che puoi averla tu, per carità. Io premetto che non sono speciale, sia ben chiaro, non sono speciale, sono semplicemente una persona che mi sono fatto da lavoro, ho lavorato con coscienza e soprattutto con volontà, e ho fatto grande la famiglia e continuo a fare grande la famiglia, tanto per darti un'idea, la famiglia di oggi mia ha compiuto i 50 anni che sono sposato con mia moglie, a differenza dei giovani di oggi che dopo pochi giorni, pochi mesi o qualche anno si separano. Ma che tipo di elementi siete, si può sapere? Voi siete dei pellegrini, non siete delle persone. Vai, Claudio. Te l'ho detto, che tra me e te c'è poca differenza nel dialogo, molta poca. Io sono sposato 40 anni, Giulio, hai capito? 40 anni, ho già fatto l'altro agento, quindi... E come ti ho detto l'altra volta, voi eravate 7, noi eravamo 5. Io ho perso il padre che avevo 3 mesi, io non l'ho conosciuto mio padre. ed era uno dei più grandi imprenditori di Porto Torres, capito? Ma lo dico io, lo dico le carte. Quindi tu immaginati in quale situazione si è trovata mia madre, che aveva 32 anni, fatti il conto. Anzi, babbo ne aveva 32, mamma ne aveva 27. Quindi vedi tu cosa, come poteva essere la situazione. Eppure ci ha fatto grandi, senza vizi, senza niente. Io non ho mai avuto nessun problema con la giustizia, così mio fratello, così mie sorelle, abbiamo tutti studiato, siamo diplomati, tutti hanno una posizione, non ci è mai mancato niente. E io quello che ho assimilato da mia madre, perché dai miei genitori non lo possiedo, perché sono nato senza padre, ok, sono l'ultimo dei cinque, quindi quello che mi ha insegnato mia madre, io ho insegnato a mia figlia, e non me ne sono trovato male, non mi sono assolutamente trovato male, ho dato tutto quello che potevo dare, sto continuando a dare, penso che come me, per carità, ce ne siano tanti altri genitori, però è così, la testa sul collo bisogna avere, perché altrimenti se c'hai la testa a posto dei piedi o viceversa, sarai sempre e continuerai a essere sempre, per me, questo è un mio pensiero, un parassita. Sì, ma così, in effetti è così, io qua. Purtroppo tanta gente non l'ha pensata così e poi si lamenta e continua a lamentarsi. Allora, però dimmi cosa hai fatto per non potersi lamentare nella vita, ci sarebbe da chiedere a certe persone. Non hai fatto molto, non hai fatto niente, o perlomeno non hai avuto modo di farlo, perché, spiegami il motivo, perché probabilmente perché tu non hai avuto voglia, di sacrificarti, che la maggior parte delle persone è così, perché non ha avuto voglia di sacrificarsi, sicuramente è così. Poi vabbè, se poi ci può essere quella persona che purtroppo può essersi ammalato e non ha potuto fare più di quanto era possibile fare. Certo, ci sono anche quelle persone, quindi per carità, ci mancherebbe altro. Però la maggior parte della gente, guarda, mamma mia, io quando sento certi discorsi tante volte lamentandosi, capito, oggi non mangio sigaretti, è vedo deficiente, sì, non mangio sigaretti, 32 sigaretti, tu devi dire, oggi sto pensando come portare il pane a casa, altro che non mangio sigaretti, dico per dire sigarette, perché è una cosa che uno, un vizio che uno lo può benissimo mantenere, per carità, ma è un modo di dire per farti capire che hanno certi pensieri anziché avere altri pensieri seri, concreti, quelli che servono veramente alla vita della loro famiglia, no? Oggi, ma te ne immagini, la macchina oggi non mi funziona, e per quale motivo non ti funziona? A me se la macchina non mi funziona, quindi la porto subito al meccanico, perché? Perché sono in grado di portarla al meccanico per farla riparare, ma se tu non hai fatto niente nella tua vita, non vai un soldo in bucciacala, come fai a farla riparare? Se vai al meccanico te la devi fare a debito, e quello te lo fa a debito, e quando hai riparato la macchina a debito, poi devi buscare soldi per pagarlo. Insomma, è una serie di conseguenze nella vita, Claudio, che non si finisce mai, guarda, è un capitolo lunghissimo che poi si può scrivere, ma sempre, continuamente, dalla mattina alla sera, senza mai interrompere le frasi che si possono dire a riguardo di certe persone. Vai, Claudio. E così, io mi ricordo, ho abitato 3 anni in via Pascoli, ma come uscivo al portone mi tentavano, ma dai una sigaretta, ma dai una sigaretta, ma dai io, ah, ma devo fare una bottiglia di birra, ma dai una sigaretta, tutti i santi giorni era la stessa cosa, tutti i santissimi giorni, infatti siccome ce l'avevo sotto il bar, era attaccato lì a Forbice, ho povero Forbice, signor Mario, bravissima persona, a volte io dicevo alla titolare del bar, allora, ma non si può vivere così, qua lascia perdere, non gli dà, perché stanno tutto il santo giorno qua aspettando gente come te, che sanno, perché lo vedono, lo sanno, che c'hai sempre sigarette, che intraprendi caffè, che quindi i soldi non ti mancano, e ma molte volte anche soldi, non è che fai 2 euro, 1 euro, non te ne do soldi, cosa vuoi, allora fammo un panino, allora andiamo alla genera alimentare lì via la cicia e ti faccio fare un panino, pago e te lo mangi, capito? Invece no, volevano i soldi, fa buccarsi, ma fa pigliarsi la pure della birra e pugiarsi in chivi in terra, con la terra dove c'era la banca, dove c'è adesso la banca, capito? A fare cavoli loro, con i soldi degli altri. Questa gente, io la reputo parassita, vai a lavorare, chi sei bello, manno, grosso, e puoi andare a lavorare, invece di chiedere l'elemosina, vergognati. Purtroppo è quello che le manca, la volontà di andare a lavorare, Claudio. Purtroppo la gente alle volte ha la cerniera della pancia arrugginita e non si vogliono piegare, non pensano nemmeno mai di oliarla la cerniera per